Effetto Mondo. It's nice to hear, guys. At the big board this morning, it is New York Governor Andrew Cuomo with the president of the NYSE, Stacey Cunningham, marking the partial reopening of the New York Stock Exchange. Eccoci qua. Ciao Giulia. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Allora, raccontaci l'introduzione di oggi di Effetto Mondo. Sì, era questa campanella, perché è una di quelle tradizioni che viene rispettata da sempre, un suono che conosciamo tutti, certo. È la campanella appunto della New York Stock Exchange, cioè la borsa di New York con tutti i suoi indici, da 9 settimane, come segno ulteriore di quanto fosse difficile questo periodo, era stato impedito il cosiddetto floor trading, cioè la presenza fisica dei traders proprio nel locale fisico della borsa. Era tutto gestito in via telematica, ma ieri Andrew Cuomo si è affacciato in questa sorta di palco reale della borsa. A fianco a lui c'era la presidente dello Stock Exchange, tutti rigorosamente con mascherina, si sono dati il 5 a distanza, non si sono nemmeno toccati i gomiti, hanno solo fatto il gesto di toccarlo, però insomma è stato appunto il segnale, che è un ulteriore segnale di un tentativo di ritorno alla nuova normalità, appunto, tanto che ci sono stati dei titoli che scherzavano su questo, i tori mascherati anziché i tori seduti, il toro naturalmente simbolo della borsa in andamento positivo. Prima di arrivare anche alla lite tra Trump e Twitter, quali altri titoli, quali altre notizie ci sono sulla stampa americana, Giulia? Sai, sappiamo che spesso negli Stati Uniti, cioè sappiamo che diciamo il problema razziale e per razziale già non mi piace l'aggettivo, però per intendere i problemi che ci sono con le minoranze, in particolare con la minoranza afroamericana, che è circa il 15% della popolazione americana, oltre ad avere sempre, abbiamo visto anche, sono in percentuale, sono stati molto più colpiti dal Covid perché hanno situazioni economiche di accesso alla sanità molto peggiori di quelle dei bianchi e di altri gruppi etnici, chiamiamoli così, e adesso c'è un ulteriore episodio di razzismo che conquista le prime pagine di tutti i giornali. Un afroamericano che era stato fermato a Minneapolis, Mississippi, quindi insomma Minneapolis, non vorrei, perché io sapete che con gli stati americani faccio un po' di fatica, avevo promesso di imparare tutte le capitali. Occhio, che poi gli ascoltatori arrivano quelli precisi, esatto, che sanno tutto, poi chiaramente che guardano su Google in un secondo e controllano, poi arrivano. Comunque di Minneapolis sono sicura, e insomma questo uomo fermato, che avrebbe dovuto essere semplicemente arrestato, è stato fermato in un modo talmente violento, e c'è un video amatoriale che lo dimostra, che è poi morto. E la notizia di oggi è che i 4 poliziotti coinvolti sono stati licenziati, che dà anche un po' la differenza tra insomma quello che succede qui quando ci sono degli abusi. Certo, qui c'è un filmato che fa vedere la morte diretta conseguenza dell'atteggiamento dei poliziotti, quindi è una sorta di flagranza di reato dei poliziotti, però è una misura molto drastica, perché naturalmente si temeva che poi questo in un clima sociale già molto teso, perché come in tutti i paesi c'è la crisi economica e sociale legata all'emergenza sanitaria, potesse sfociare in ulteriori, insomma, in grandi disordini fuori controllo, e perciò questa misura drastica annunciata dal sindaco di Minneapolis. Dove ci porti adesso? In Gran Bretagna, per esempio? Sì, nel Regno Unito c'eravamo un po' dimenticati di parlarne lunedì, ma per darvi l'idea che è proprio un tema che sono 3 giorni che è sulle prime pagine dei giornali, ed è questo Dominic Cummings, che è stato, per darvi un'idea, non ha un ruolo ufficiale, però è considerato da tutti il vero consigliere politico di Boris Johnson, è stato comunque l'uomo ultraconservatore al quale Boris Johnson aveva affidato la campagna per il Leave, quando c'è stato il referendum della Brexit nel giugno del 2016, e quindi è sicuramente una delle persone più ascoltate da Boris Johnson. Però durante il lockdown, nonostante si chiedesse a tutti di, senza come da noi un DPCM, uno stato di emergenza, però era la richiesta ufficiale a tutti i cittadini britannici di non muoversi dalle loro case, lui non soltanto l'ha fatto, ma l'ha fatto in compagnia della moglie che aveva sintomi da Covid, tornando poi al lavoro il giorno dopo senza dire di essere essere stato appunto. Ma se non sbaglio, ha fatto anche una sosta durante il tragitto. Per, qualcuno dice per andare al mare, lui ha detto per fare una visita, mi sembra. Sì, lui dice, lui si è giustificato anche in una conferenza stampa a Downing Street, ma questa cosa non purtroppo Boris Johnson era abituato con Cummings che qualsiasi cosa si poteva, insomma, si poteva fare in nome della Brexit, in nome del fallimento del precedente governo. Il rating di Boris Johnson oggi su Financial Times, ma è su tutte le prime pagine dei giornali britannici, è sotto zero, che è una cosa, non so, come quando abbiamo visto il petrolio, i futures sul petrolio sotto zero, è già una cosa che da immaginare, è incredibile. Cioè è come se nessuno in questo momento parlasse bene di Boris Johnson, e quindi oggi probabilmente ci sarà un'ulteriore dichiarazione. Ci sono 13 membri del partito dei conservatori che minacciano le dimissioni se Boris Johnson non tornerà sulla sua decisione di non toccare Cummings. C'è una vignetta oggi su un giornale che dice non obbligherò Cummings alle dimissioni se Cummings non mi obbligherà a farlo. L'idea di questo vero spin doctor, sì, a cui Johnson deve sostanzialmente la sua ultima l'elezione, la vittoria alle politiche, quindi l'insediamento a Downing Street, e insomma vedremo come proseguirà nelle prossime ore. Giulia, Francia, parlo il meno possibile perché si sente la mia voce nel ritorno sul tuo microfono, e sono inconvenienti tecnici che capitano. Francia? Sì, ti porto in Francia, e se vuoi sentiamo un breve audio, è proprio di Macron che ieri ha annunciato questo mega piano, non di salvataggio di una singola azienda, ma di aiuto all'intero settore automobilistico francese. Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus d'un million par an sous cinq ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides. Che dice? Ecco, qui era anche lui con mascherina, circondato da persone con mascherina, ha visitato questo stabilimento. È un piano molto interessante, secondo me, sulla prima pagina di Les Echos, di Le Figaro, perché appunto, a differenza di quello che sta succedendo in Italia ma anche in altri paesi, innanzitutto c'è un tentativo di prendere questa occasione dell'emergenza sanitaria per fare veramente una svolta molto decisa verso l'elettrico, verso una mobilità legata sempre alle automobili ma più sostenibile, e quindi ci saranno incentivi per chi compra auto ibride o elettriche, che sappiamo sono ancora molto più care rispetto a quelle di altro tipo. Ci sarà il famoso prestito garantito a Renault, condizionato al rientro delle annunciate chiusure degli stabilimenti in Francia. Ci saranno aiuti alle aziende che cercheranno di accelerare la conversione dei loro stabilimenti e che metteranno nella pipeline nuovi modelli elettrici o ibridi. Addirittura ci saranno incentivi per un altro tipo di mobilità sostenibile, che è quella legata all'idrogeno. Insomma, un piano proprio ad ampio respiro, e Macron qui con i soliti toni un po' trionfalisti ci dice la Francia tornerà a essere il punto di riferimento mondiale per l'automobile e soprattutto per la mobilità legata appunto all'elettrico, che insomma è, se non altro mi sembra una cosa di visione, ecco, che vada oltre l'emergenza, che pure naturalmente c'è. Assolutamente. Che altro, Giulia? Abbiamo ancora un paio di minuti. Visto che abbiamo parlato di elettrico e che dell'elettrico è Elon Musk, negli Stati Uniti la stragrande maggioranza delle auto elettriche vendute sono della sua Tesla, di cui è appunto fondatore, e siccome negli Stati Uniti ci sarà il lancio di questo primo veicolo spaziale, che non è un veicolo Tesla ma è un progetto di Elon Musk, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, il quotidiano di Francoforte, pubblica questa bella foto tutta sui toni molto spaziali, molto da film di fantascienza, con una foto di questa rampa di lancio, e cita addirittura Seneca, tra l'altro i tedeschi, naturalmente, essendo un popolo che ha dato poi Natale a tanti filosofi, sono molto legati anche ai filosofi dell'antica Grecia ma anche a quelli dell'antica Roma, quindi citano in prima pagina Seneca che dice non possiamo immaginare un bequem veg, cioè un sentiero comodo che ci porti dalla terra verso le stelle. E però l'idea insomma è quella di, lo sappiamo, ma non c'è soltanto Elon Musk in questo progetto, c'era anche il fondatore di Virgin, poi tante cose sono state un po' anche rimandate, anche indipendentemente dall'epidemia di Covid, però questo sogno del turismo spaziale, forse noi siamo qui a chiederci se possiamo andare in spiaggia e c'è chi pensa invece di portarci sulla Luna direttamente. Ognuno ha i suoi orizzonti. Grazie Giulia, ci risentiamo domani con te. È tutto per la puntata di oggi con Valeria Bernardi in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, Alessio Maurizi. L'augurio di una buona giornata, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14.